War Streets, I viaggi del lupo. E ci siamo anche questa sera, il 9 giugno, sono le 20, su Radio Lupo Solitario. Io sono Domenico Biancardi e iniziamo una nuova puntata di Wolf Trips. Stiamo un po' volgendo al termine, queste sono le ultime puntate prima della pausa estiva. Andiamo ad ascoltare un po' di brani nuovi. Il primo che vi propongo è Far con Blaze, è un brano elettronico alternativo. Mischia anche un po' il soul e il pop. Andiamo ad ascoltarlo. Feel your breath, cold as it touches my neck, dark in the wake of your silhouette. I know every minute that we spend is bringing us closer to seeing the end. Don't wanna go, cause it's double-edged. Oh, whoa. I think this bridge is burning down. I think my heart has just been bleeding slowly. Cause first of all you're thinking about, and then you try to act like you don't know me. Questo era il brano di Fars, si chiama Blades. Non ho molte informazioni su di lui, ma mi ripropongo di ritrovarle a breve. Continuiamo un po' il nostro giro musicale. Il prossimo brano è il brano di Vince Staples con Big Fish, quindi rimaniamo un po' sul genere rap, elettro rap. Lui viene da Long Beach e dagli Stati Uniti. Andiamo a ascoltarlo subito con Vince Staples, Big Fish. You can get anything you want. You know what I'm saying? You want that over there? You want that over there? Got you. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', so far from my past misfortune. No sleeping, late nights, no eating, gun squeezing. I'm a real artesian, Ramona. I was round that counter, still down, I'm a north-north soldier. G slide right down Sawyer. When we slide, you won't see morning. Another story of a young black man trying to make it up out that gym. Goddamn, back, let me make my bends. Got plans, if you hatin', don't shake my hand. Take it easy, homie. Reminiscing, sitting in that Benz of the 22 bus stop way back when with the 22 five shot eyes on scan for the click, clack, clap of the boop, bop, bam, cuz. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', countin' up hundreds by the thousand. Funny, I was going crazy not too long ago. Women problems every morning like the Maury Show. Swimming upstream while I'm trying to keep my bread from the sharks. Maybe you want to put the hammer to my head at the park. Probably ticking with the kids trying to get them on a straight path. Got the lanes mad, know they hate to see me make cash. Got the space dash in the forum with the GPS address to your mama house. Conversations, what I'm all about. Took the smart route, never been marked out. Should've been dead broke, should've been chalked out. But it didn't happen, now it's time to get it cracking. Quarterbacking like I'm 40 while they mix the holy water with the Voss. Wanna be the boss, then you gotta pay the cost. Learning from the dog, I'm from Long Beach. That's a city where the skinny carry strong heat. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. E questo era il brano di Vince Staple con Big Fish, mi sono un attimo confuso col nome. Adesso, prima di ascoltare il prossimo pezzo, che è una novità di Wolf Trips, volevo un po' salutare qualcuno che ci è venuto a trovare, qualcun altro dovrebbe ancora arrivare. Ciao Sara. Ciao a tutti. Lei praticamente sta seguendo un blog sulla terra, diciamo. Sì, sulle scienze naturali, scienze ambientali, insomma, ne avevamo già parlato. Sì, vabbè, sì. Vabbè, ma tanto lo ripetiamo. Ma ripetita Juvent, non esatto. Ripetuta. Biomaterra è un blog che nasce assieme a un altro mio amico che si chiama Emanuele, che è latitante, che esatto. Voleva venirsi a fare un giro, ma non lo vedo mai, quindi. È vero. E noi parliamo di scienze, tutto quello che riguarda la scienza, tutto quello che è collegato adesso. Perfetto, perfetto. Tra l'altro mi hai detto anche che farai una collaborazione. Sì, esatto, da oggi è nata una collaborazione con un'associazione ambientalista che si chiama Environmental. E insomma, che vi aiuterà un po' nei vostri progetti. Esatto, sì, sì. Perfetto, perfetto. Andiamo ad ascoltarci un altro brano. Questo è Lucian con Do My Thing. Anything you want in the world, got a money tree in your backyard. Your mama said, honey, you can get anyone with those baby blue eyes and curls. Well, I don't think that's gonna help you, seeing that you don't know how to treat girls. Well, sorry to disappoint you, but you're not the only cute dude in the world. See, I am not some furniture that's just lying around. You take that sour attitude and wash it out your mouth. 'Cause I have got some things to do, it's time that I peace out. Now if you excuse me, can you let me do my thing? Yeah, I don't want your diamond rings. Yeah, can you let me do my thing? Just wanna do my thing. Let me, yeah. Let me, let me do my thing. Sour attitude and wash it out your mouth. I don't want your diamond rings. Yeah, can you let me do my thing? Yeah, I just wanna do my thing. Yeah, let me do my thing. Let me do my thing. Let me do my thing. Let me do my thing. Let me do my thing. Let me do my thing. E questa era Lucian con Do My Thing. Ti piace questo pezzo, Sara? Sì, sì. È molto interessante, a me piace molto. Bello tranquillo, però ha la sua carica giusta. E il tuo blog, ultimi post che hai messo, ultime cose di cui hai parlato? Abbiamo parlato... l'ultimo è stato un'intervista fatta a un fotografo di Legnano. Sì. Che si chiama Eric Colombo e... è stato molto interessante, ho conosciuto... E che cos'è che faceva di particolare? Lui fa delle fotografie, sta facendo un progetto sugli animali, sul maltrattamento degli animali e... è stato interessante. Beh, potremmo cercare di portarcelo qui in radio, anche solo per farsi un giretto, esatto. Per le prossime puntate. Anche se ti ripeto, adesso siamo un po' verso la fine. Sì. Anche perché il caldo inizia a farsi sentire abbastanza. Sentivo che c'erano altri ragazzi che sono portati addirittura un pinguino e poi se lo riportavano via a fine giornata. Quindi secondo me è l'unica soluzione migliore. Tra l'altro li saluto, magari mi stanno ascoltando. Sono quelli di I Love Radio Lupo. Non voglio sbagliare. Andiamo a ascoltare il prossimo brano che si chiama dei Portugal The Man. Il brano si chiama Feel It Still. È un brano che ho sentito. L'avevi già messi. È un brano che probabilmente non sentiremo più in Wolf Trips, perché Wolf Trips passa, diciamo, musica underground. Sì, vero. E questo brano qui l'ho sentito nelle radio, diciamo, nazionali, tipo R101, RTL. Quindi. Diciamo, l'abbiamo lanciato, ma... Addio, lo salutiamo con questo passaggio. Quindi andiamo ad ascoltarci Portugal The Man con Feel It Still. To keep my hands on myself. Six, yeah. Might be over now, but I feel it still. E questo era il brano di Portugal The Man con Feel It Still. Lo salutiamo ufficialmente, perché stavo dicendo prima, visto che adesso è arrivato l'altro ospite di cui parlavo prima, che questo brano ormai è passato nelle radio nazionali, quindi non è più degno di stare nel mio programma, ecco, mettiamola così. Tanto salutiamo Fabio, che è arrivato da, mi dicevano, da una giornata tosta, da una giornata veramente tosta, abbastanza difficile. Lui è il compare di viaggi, di mille disavventure, ecco, mettiamola così, va. Il socio. Quindi hai avuto una bella giornata pesante, lasciamo stare la giornata. Sì, sì, una giornata di quelle proprio da dimenticare. No, e invece volevo parlare con te di un'altra cosa. Visto che tu stai organizzando un bel viaggetto. Sì. Ecco. Tra qualche mese. E in realtà stavo pensando anche io di andare in giro, però tu addirittura vai oltreoceano. Sì, è già il secondo anno che decido di andare fuori dall'Unione Europea. Sì, no, quest'anno penso, dopo l'esperienza dell'anno scorso che sono andato in Messico, e ragazzi andate in Messico perché ne vale la pena, volevo andare a New York a fare una vacanza un po' diversa. Mica male. Non mare, ma a farsi un bel viaggetto. Anche io avevo intenzione di farmi un giro da qualche parte, in qualche capitale europea, però non lo so. Ma ci sono tanti bei posti. Sì, sono diciamo un po'... che ultimamente l'Europa è un po' più... un po' rischiosa. Vedevo oggi un'immagine che mi ha fatto morire da ridere, che c'era tipo l'immagine, la cosa dell'Europa e sotto il campo minato. Cioè era un po' black humor. Io invece ho visto l'immagine dell'Europa sul campo. Non so se ti ricordi quel gioco che c'era su Windows, quello, gratuito. Quello sto dicendo. Campo minato intendo quello io. Il giochino di Windows con le caselle 3, 4. E non era, cioè rendeva un po' l'idea, ecco, mettiamolo sì, così. Infatti effettivamente è un po' così. Le più belle città sono un po' sotto pressione, sotto questo. Vabbè, ascolta, facciamo una cosa: andiamo a ascoltarci una di quelle bombe che va bene, nel senso, sì, bombe musicali. Quelle che proprio che ti danno gioia e divertimento. Che non hanno nulla a che vedere. Ma chi con sono altri... questi? Questi sono Naxos, che non è una roba né di patatine né di. Non è Narcos. Non sono i giardini Naxos. Sono in realtà due DJ dell'Austria, giusto per rimanere in tema europeo. Va bene, allora ascoltiamoci Naxos con Paper Tiger. viaggi del lupo. E un giorno squillante, babando alle ciance, la gente ti aspetta per una diretta. Lo so, è il primo giorno del settimanale, c'è un Mickey squillante, non ti può annoiare. La vita è bella, un programma di Mickey Squillante con Mariella La Monica, Nicolas Tigre e la regia di Longo Tonino. Ogni lunedì dalle 21. A tavola! Quando questi esemplari cercano il cibo, travolgono tutto sul loro percorso. Famiglia scatenata! Solo nei 500 negozi Original Marines troverete l'abbigliamento per la vita selvaggia di tutti i giorni. Original Marines! Razza Original! Fuck the Cancer 2.0. Sabato 10 giugno 2017, Stadio di Varese. I ragazzi della Curva Nord di Varese ti aspettano per ricordare Erika e tutti gli angeli che l'hanno raggiunta. Un evento speciale per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Giacomo Ascoli. Durante la giornata, musica, giochi per bambini, gonfiabili e tanto divertimento. Verranno messe all'asta tante maglie di campioni sportivi. Fuck the Cancer 2.0. Sabato 10 giugno, non mancare allo Stadio di Varese. Make you feel purple. Let me see what it's like. You're in my circle. Late at night in your bed. Do I cross your mind? Does the moon call my name? I hear it every time. We could try to make it something. Just tell me where to begin. Cause baby, I wanna feel the heat on your skin. Every day, but I feel so strange. Rientriamo dopo la pubblicità. Questo qua è il brano di Jerry Falk con Purple Feelings. Prima parlavamo di Europa, questo è dell'Olanda. Poi andremo ad ascoltare un altro brano. Ah, sei stato in Olanda. Ma quell'amico che vive là. Io non ci sono mai stato in realtà. No, Olanda è bella, dipende per quale motivo tu vai. Beh, ci sono i mulini a vento, no? Sì, ci sono i mulini a vento, e tanto vento, diciamo. Vedi, no, ce n'è di cose belle, ce n'è da vedere. Ma prima stavamo parlando con Sara in realtà della natura, delle cose naturali. Quindi ci leghiamo sempre all'Olanda. Sì, perché in Olanda. Ma guarda che l'Olanda ha dei campi molto belli. Papaveri. No, tulipani. Sì, tulipani. Che sono molto alti. I papaveri sono alti. Quindi alti. Quindi puoi capire in Olanda quanti tulipani ho visto. Ma i papaveri sono alti lì? Sì, e io sono piccolino. Vabbè. Tornando alla natura. Tornando alla natura. Sara, raccontaci. Cosa devo raccontare? No, nel senso, no, prima stavamo parlando un po' del, no, in realtà prima stavamo parlando della natura e della fotografia. Perché suo ultimo, diciamo, intervento sul blog parlava proprio di questo fotografo. Sì, sì. E non è male, adesso con la tecnologia poi tra l'altro puoi fotografare qualsiasi cosa, no? Te no, nei tuoi viaggi non avrei fotografato qualsiasi milioni di immagini di natura, no? Io sono un giapponese nei viaggi. E cosa usi? La macchina fotografica, il telefono? Sì, io ho una macchina fotografica e ogni tanto uso anche il telefonino. Dipende da quanta batteria ho da una parte e dall'altra. Cioè io non sono il fotografo, quello che deve fare la foto figa. Io farò la foto e basta, cioè. Giusto, in questo giusto. Momento c'è, non lo rivedrò magari per tanti anni, foto. Quello sì. Vabbè, lei invece c'ha la macchina fotografica. Quella seria. Con l'obiettivo. Però effettivamente poi ci mette 3 ore a fare una foto. Quindi so se devi fare una foto della natura, è già scappato tutto. Sono già morti gli animali. Hanno cementificato nel frattempo. Purtroppo è nuova questa, quindi non si capisce ancora come usarla. Ma che macchina fotografica era? Allora, io avevo la Canon. Una del sempre 2000. Dall'Olanda arrivava la Canon. Sì. E invece adesso c'ho una Sony che è super leggera, quindi per te che fai tanti viaggi, dici che è meglio il telefonino. Pesa meno di un chilo, quindi è sempre meglio il telefonino comunque. Sì, il telefono pesa ancora meno di un chilo, quindi esatto. Sempre meglio vedere il peso. Va benissimo. No, vabbè, a livello di qualità effettivamente la sua macchina fa delle foto decisamente meglio del telefonino. Al fine giustifica i mezzi, quindi il telefonino va benissimo. Sì, sì, sì. Comunque mi ricordo anche in Olanda c'è un'altra cosa. Don Quixote. No, sto dicendo una cavolata. È quello che faceva la guerra contro i mulini a vento. Ah sì, tu ogni mulino vedi Don Chisciotte che combatte. Sì, infatti volte. Il famoso Don Chisciotte, non lo conosci? Non lo sai, sì, no, ma siamo anche usciti una serie insieme. Vedi. Eravamo lì in Piazza Dam. Siamo andati al Madame Trousseau. Che è bello, eh. Sì. Se capiti in Olanda vai a farti un giro al Madame Trousseau, al Museo delle Cere. Ah, bello, mi ricordo un bel film del Museo. No, delle è orribile quel film lì, che so già a quale stai pensando te. Vabbè, andiamo a ascoltarci il prossimo pezzo, va che è meglio. Che non è da Museo delle Cere. No, allora, loro sono della Svezia, giusto per spostarci dall'Olanda, ci stiamo spostando in sempre nord. Paesi nordici. Devo portare una cartina geografica quando vengo qua. Hai visto, ti do sempre questi aneddoti, oggi rimaniamo un po' nell'Europa. Ma aspetta, adesso... cantante maschio o cantante femmina? No, allora, lei è femmina e ha un nome impronunciabile, allora è Tove Anna... Linnea Ostman Strike. Sai che la guarderò subito su Wikipedia se ve la segno a comino. Vai, vabbè, quello sì, vado a guardare. E fa un genere che è un misto tra l'elettropop e l'indie pop. Lei quindi si chiama Tove Strike e il brano si chiama Say My Name. Jump in our relation, and I don't mind, but when we touch it's elevation. Up, up, up, up, up. Up, up, up, up, up, up. You speak my lingo, we don't need no translation. I never need a break, cause we feel like vacation. Up, up, up, up, up. Got me up, up, up, up, up. Go ahead and feel what you feel. List of where you been, no information. You can't get me now. Out of patience, why? feel what you feel. Cause I need what I need and I say what I mean. Just say my name, say my name. Wear it out like a sweater that you love. Cause I can't get enough from you. Say my name, say my name. Spill it out like a drink you should've skipped. You're the one I wanna get me in. Say my name. Let it roll off your tongue. Let me know what you want. Wear it out like a sweater that you love. Cause I can't get enough from you. E questo era il brano di Tove Strike con Say My Name. Ripeto che loro vengono dalla Svizzera, anzi lei viene dalla Svizzera perché è una sola cantante. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è una novità per Wolf Trips, quindi un brano nuovo. Loro sono Robotaki con il brano Monkey Bars. E ci spostiamo un po' dall'Europa e provengono da Toronto. Il brano è Monkey Bars. If I took you home, made a wrong turn a few streets ago. Take a walk on my lazy bones. Fingerprints in case you get lost. Say my name loud. I love the way it sounds in your mouth. Draw the shade, shadows play. Sunset blue at the end of my day. Questo era il brano di Robotaki, Monkey Bars. Continuiamo un po' a parlare con le mie spalle di oggi, le mie due spalle di oggi, che non sono quelle che ho sotto la testa, ma io sono bella grossa, cioè, e l'altra invece un po' più piccolina, proprio di stazza. Solo che dall'altra parte si devono immaginare, penso in un sasso. Sì, solo che una delle due spalle, diciamo che è molto tabagista, quindi mi sfugge, ogni tanto mi sfugge al controllo. La nicotina. Vabbè. Stiamo parlando fuori onda di un evento al quale parteciperemo, che adesso non mi ricordo bene come si chiama. In realtà dovrebbe essere Mabbe Fest, che è il festival di Marnate. È un festival nuovo, c'è l'ingresso gratuito, ci saranno degli ospiti, si sta ancora un po' definendo il tutto, ed è organizzato da LP World, che poi collabora con la radio anche per altre cose. E faremo anche la Silent Disco. E stavamo parlando un po' della Silent Disco. Che effettivamente una delle due spalle dice bello bello, L'altra due, che è un po' più giovane, dice bello, bello, bello. L'altra due spalle dice: ma che cazzo? Ma che cazzo? Perché? No, ascolta, io sto pensando a quando andavamo noi in discoteca e adesso che c'è la sala in disco. Cioè, tu prima andavi in discoteca, tu era l'una, mezzanotte per pagare meno, e avevi la musica già a cannone. Che per parlare con una tipa tra un po' te lo dovevi fare per quanto dovevi avvicinarsi. Invece adesso hai ste cuffiette, questi tre canali, da quanto ho capito. Sì, sì, sì, sarà così. Se sbaglio, perché io non lo so. No, allora, in realtà è bello, nel senso, è una cosa molto bella, devo dirti la verità. Però a me risulta strano, nel senso, mi fa proprio strano. È bello perché tu hai queste cuffie. No, perché tu hai queste cuffie e puoi selezionarti il tipo di musica che vuoi ascoltare, no? Perché sono tre DJ, anche quella serata lì ce ne sarà. Allora, uno dance. Adesso non mi ricordo bene i nomi. L'altro farà hip hop, musica più o meno anche questa che passiamo noi su Wolf Trips. E poi ce ne sarà uno completamente rock. Quindi uno può decidere cosa ascoltare, oppure continuare a fare zapping. Ho capito. Il problema è che non crea aggregazione. La parte musicale è anche interessante. Il problema è il perché vado a ballare. Cioè, io adesso non è che sono in pensione, cioè, possiamo dirlo al pubblico, io sono ma sei un vecchio dai, 30, dopo i 30 vecchio, ho passato i 30, quindi. Però quando andavo in discoteca l'obiettivo non era ascoltare solo la musica, erano altri, cioè parliamoci chiaro, da uomo andavi lì perché devi conoscere le donne, ma anche solo, ma lascia stare le donne, anche solo parlare con gli amici, cioè stai passando, no, era conoscere le donne. Vabbè, dico in generale, però comunque aggregarsi ad altre persone, mettiamola così, dai, un po' femminili più... Ok, dovevi portare a casa il risultato, okay. E invece così cosa fai? Cioè, sì, mi fa molto solitaria. Non lo so, nel senso, magari... Ma come? Tu ascolti la stessa musica che ascolta lei, vi incontrate, ballate, e se tu hai la stessa musica, no? Hai il colore diverso della cuffia. Cioè, quindi capito? Tu... Vedi che siamo proprio ignoranti. E quindi tu vedi, quella lì c'ha la cuffia blu, l'altro c'ha la cuffia blu, ok, poi balliamo assieme. Quindi io ho perso più o meno 20 anni della mia vita andare a ballare perdendomi queste occasioni. Ho speso milioni di euro o di lire ad offrire cocktail. Ciao, ci beviamo qualcosa insieme? Ma adesso non puoi più farlo, perché se devi ascoltare la musica con le cuffie. E come no, glielo offri dopo la cuffia. Cioè, quindi, dopo la cuffia. Alla fine ci fanno sempre spendere soldi le donne. Ma ti rendi conto? Ma uno va in discoteca o va in piscina? Io ancora non ho capito. Cioè, questa storia qua. Allora, dopo questa minchiata, scusiamoci il prossimo questa brano. Minchiata! Che è meglio, va. Questo qua è un brano di Unlike Pluto. Cioè, non mi piace Pluto. Io come lo traduco? Unlike Pluto, lo traduco così. Unlike Pluto, Pluto. Però devo dirti la verità, che il brano e l'artista mi piace veramente molto. Questo qua è, si chiama Sweet Fit Mr. Blonde. My baby and I. Keep my questo è il brano di Unlike Pluto, Sweet. A me piace veramente tanto. Poi l'ho suonato settimana scorsa, mi ha dato una bella carica, molto suonato bello. Suonato Pluto, Sweet. No, Unlike l'ho suonato. E vabbè, chiudiamo il discorso Silent Disco. Volevo dire un'ultima cosa, no? Allora, dici dopo, tutto. Siamo allora, tutti orecchie. No, allora dopo anzi, in realtà siamo tutte cuffie. Tutte cuffie, giustamente. Devo dire la verità, sono molto curioso, non vedo l'ora poi dopo di... Probabilmente suonerò anch'io una parte del... Non con la musica di Wolf Trips, ma suonerò della musica anch'io lì. Sono curioso di sapere un po' come succede. Senza, io, l'immagine che ho è questa. Come dicevi tu prima, no? Tu ti immagini, per esempio, prendiamo una decina di persone, no? Facciamo due persone stanno ascoltando un genere, tre un altro e le altre un altro ancora. E magari ballano anche, si muovono al ritmo, no? E cantano. Cioè, che casino è? No, ma tu che non hai le cuffie, passi là a prenderti una birra al bar e dici, ma dove sono finito a manicomio? Sì, è effettivamente proprio quella l'immagine che mi viene in mente. Come mi è capitato a me, che io sono andata alla sala in disco fuori, sono andata lì e mi sono messa a ballare a casa ascoltando. Ma se uno si porta l'iPod poi da casa e si mette le cuffie, si mette in mezzo, e lì è un casino, lì... perché dopo hai le cuffie bianche, le cuffie verdi, le cuffie rosse, e tu che l'iPod non rimorchi, no, perché non c'è nessun colore, saresti illegale, non potresti fare lì con le cuffie. Ti arrestano. Beh, come quando vai in discoteca con l'iPod, allora stessa cosa. Comunque, ma diciamo che quando andavamo in discoteca l'iPod non c'era. C'erano quelli con i Walkman, però io li ho visti un po' si portavano i Walkman. Se andavi adesso, non so se puoi al Nautilus, ne vedevi di ogni. Cioè. Sì. Vabbè, comunque, tornando seri, allora questo evento qua si terrà il 14, il 15 e il 16 luglio. Quindi sì, ce n'è ancora un po'. Ed è il Mabes Fest, giusto? Festival che si terrà a Marnate. Esatto. Quindi se non abbiamo nulla da fare 14, 15 e 16. Beh, io 14 e 15 ci sono sicuramente. Ci allora sarò ti possiamo trovare. Passati a trovare, va che è meglio. Va bene. E se non sbaglio mi sembra che c'è anche tipo una serata. Sarà non è hip hop, mi sembra, non lo so. Comunque sono due serate a tema, di cui uno ci sono degli ospiti nelle due serate, e poi dopo la mezzanotte ci sarà questa benedetta Silent Disco. Adesso mi è venuta proprio la curiosità. Bravo, come sì, me. Esatto. Sono curioso di vedere tutti sono questi matti che fanno finta di ballare. Oh, poi si dice che è la moda del momento, quindi vabbè, vedremo. No, vedremo. Ma in giro ne hanno fatte diverse, come diceva prima Sara, l'anno scorso a Cassano. Sì. Anche prossima settimana c'è a Cassano. E sempre poi alla Magana Summer Festival di Gallarate. Sì, ok. Possiamo farla qua anche a Radio Lupo la Silent Disco. Sì, ma tanto effettivamente oggi stiamo facendo un po' la Silent Disco, perché in realtà la musica l'ascolto solo io. Voi siete noi senza stiamo andando in bianco. Esatto. Siete andando in bianco, quindi ci scusiamo con tutti quelli che ci stanno ascoltando. No, vi sto regolando io, non vi preoccupate. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. È un brano vecchissimo di Wolf Trips, uno dei primi che ho messo a marzo. Però l'ho suonato anche questo fine settimana e ho detto, questo mi piaceva, non so perché non l'ho più messo. Loro è Fam e Sober col brano Alibi. Yeah. Call me sorry, erased against the speed of light. Sing me long for your sweet songs, my lullaby. Hold me close, I get tingles, my fingers can't separate touch. Sing me long for that sweet song, it resonates ice. Be my evidence of love. Be my rock beneath a trial. E questo era il brano di Fame Sober con Alibi. Vi piace? Sì, aveva un bel alibi, diciamo. Un bel alibi, un bel alibi. Vi piace, tra l'altro, detto. È una cosa francese, mi è venuto un francesismo. Vi piace. Vabbè, chiudiamo un attimino il discorso del Mabes Festival. Sara, in cui tu saremo tutti presenti. No, oh, meno male, va. Dobbiamo essere tutti presenti 14, 15, 16 luglio, via Lombardia, 797 Marnate. Tre giorni di cosa buona 797? Musica. La via. Ah, la via. Via numero... Lombardia, oh, 797. Ci saranno tante case, cosa ti devo dire? Tre giorni di buona musica, birra e divertimento. Mabes Fest. Cercate sulla pagina. Sulla Facebook, pagina, sì. E c'è anche il sito, a quanto pare. Poi lo condividerò anche su Wolf Trips. Anche se in realtà mi dispiace non mettere la musica di Wolf Trips. Sabato, proprio questo sabato, abbiamo suonato. Se mettiamo la quarta cuffia. La quarta cuffia? No, ma no, siamo a carenza di DJ, devo dire la verità. Quindi è così. È così. Va bene. Continuiamo con la musica. Andiamo velocissimi. E perché chi ascoltiamo adesso? Dici un po'. Adesso ascoltiamo un pezzo nuovo. Ce n'è ancora un paio di nuovi, di cui uno è anche abbastanza famoso. Però questo qua in realtà è sempre nel... Aspetta che provo a indovinare. Scommetto che metterai Waves Bronze Whale Remix. Sì, non è proprio Waves Bronze. Sbronzo proprio. Perché ho dimenticato punto MP3. Ecco. No, non è, allora, in realtà devo dirti la verità, perché se guardi il tag della regia ti portano un po' fuori strada. Allora, l'artista è Luna Shadow e il brano si chiama Waves. Ah, e quindi... poi è Bronze Whale Remix. Ah, quindi è proprio quindi tutta è altra la, cosa. È la... No, aspetta, perché io ho guardato il vecchio album. Ah, ok. È la Bronze Whale. Cioè? Non lo diciamo. Ok. Andiamo a ascoltare. Facciamo finta di niente. Ho ascoltato adesso Luna Shadow con il brano Waves. Allora, abbiamo parlato adesso dell'evento del Mab, del Silent Disco, del Mabes Festival. Poi tra l'altro avremo ancora altre puntate per scendere nei dettagli, perché si sta ancora definendo un po' la scaletta delle tre giornate di festival. Noi siamo la voce del popolo. Giusto, più giusto. Più abbiamo, più noi le diventiamo. Giusto. Infatti, dovremmo parlare di un altro bellissimo evento che sta organizzando Radio Lupo. Molto importante. Intanto salutiamo, oltre che le zanzare, i cani. Sì, che per la serie Manculi Cani. Non dire che sono le nostre fan, almeno fai credere che qualcuno fuori ci aspetta, no? E quando ti dice, ma ti ascolta qualcuno? Manculi Cani. Ma perché il bello della radio è questo, perché non vedendoti la gente può immaginarti, no? Per dire, ragazzi, io sono alto 1,80 m, certo, moro, occhi azzurri, fisico perfetto, natica soda, cosa volete di più dalla vita? Ho 22 anni. Sì. Ma noi abbiamo la diretta. Più di 11. Però c'è la webcam, ti dico. Esatto, noi adesso abbiamo la webcam. No! Sì. No, ma tornando al serio, noi adesso dobbiamo introdurre un evento importante. Sì, che il nome è Fuck the Cancer 2.0, sì, serio. Fuck the Cancer. No, sì, sembra un pezzo dei pezzo dei gruppi punk rock, dei Pennywise, mi sembra. Bravo, un pezzo dei Pennywise. Però è un evento importante. Allora, da quanto leggo da qua, e ammetto la mia ignoranza, è la prima volta che leggo, quindi se dico boiate, la prima volta che leggi in generale. Sì, infatti ho fatto la terza elementare l'altro giorno. Ok. Allora, è organizzato dalla Curva Nord del Varese, si terrà allo Stadio Ossola di Varese. Francossola. E ci sarà un'asta benefica delle magliette dei grandi campioni, presumo del Varese. Sì, sicuro. Non so, Neto Pereira, grande attaccante che ha giocato qualche anno fa nel Varese. Siamo a Gallarate, non puoi. Certo. Davvero? Sì, è stato anche capocannoniere. Ma dai. Nella serie. Però. Era bravo, era brasiliano, per questo che era bravo. Quindi era brasiliano di Varese. Certo, i carioca sono sempre forti. No, comunque è una cosa importante, prima di tutto perché è un'asta benefica. E da quanto leggo dal titolo, adesso poi ci informeremo anche meglio. Sì, anche perché chi organizza qualcosa ce l'abbiamo dietro nel nostro stanzino. Noi gli chiediamo un po' di informazioni. È fatto per l'aiuto a, penso, alle malattie del cancro. Beh, col titolo del genere non poteva essere altrimenti. In memoria a questa ragazza Erika, di cui vorrò informarmi il prima possibile. E niente, io se non avete qualcosa di da fare di alternativo, fate un salto, che è sempre una cosa importante. Sì. Tra l'altro ci sarà anche Radio Lupo per fare una diretta radiofonica. Noi non ci saremo in realtà, perché domani siamo in Lidi Migliori, devo dire la verità. Ah, ok. Quindi comunque, ragazzi, il 10 giugno una capatina allo Stadio Ossola, che fa sempre bene, allo stadio della provincia, e vi comprate una bella maglietta. Il 10 giugno è domani. Non è che il 10, sembra che il 10 giugno, ah, chissà quando. La data, così uno va, guarda l'agenda, dice 10 giugno, spesa, andare a prendere i figli, un buco, Stadio Ossola, compro okay, maglietta. Ok. Vabbè, adesso andiamo ad ascoltarci il prossimo brano. Prova a vedere a lanciarlo. È un brano famoso, però un remix molto particolare, a me piace molto. Allora, i Dua Lips. No, hai sbagliato tutto. Allora, devo battere gli occhiali io. È Ed Sheeran con Shape of You. Ma con Ed Sheeran, se no ci cazziano. Allora, Dome, dobbiamo imparare una cosa. Ormai l'English. Noi non abbiamo più l'età per lanciare per fare la radio in generale. Vabbè, facciamo Ed parlare Sheeran quelli che sanno. Con Shape of You Elephant Remix. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Begin, we're going out on our first date. You and me are thrifty, so go, you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. Beh, è bello questo remix, a me piace. Sì, io ero qua che ballavo. Infatti, ve lo cantavate. Questa era, diciamo, la versione un po' più commercial di Wolf Trips, dai. Yes. Passatemi il termine. Quindi chiudiamo un po' il discorso del... Dillo tu, come si chiama l'evento? Fuck the Cancer 2.0. Giusto, 2.0 perché sarà la seconda edizione, immagino, a grandi linee. Penso di sì. Si spera. Sì. Perché sennò perché 2.0? Io nella mia larga ignoranza penso di aver capito che è il secondo evento, dai. Io non l'avevo capito, sinceramente. Per dirti la verità. Poi tra l'altro... Devo dire una cosa, siamo abbastanza bilanciati, cioè... Tua sorella, che è quella che effettivamente è l'unica che ha un po' di intelletto tra di noi. Sì, io che sono il cretino della situazione, e te che fai da mediatore. Quindi, giusto. Il discorso rimbalza. Siccome si abbassa di stronzate, sento tua sorella zitta in questo momento. Infatti, proprio non, si sta nascondendo dietro al monitor. Non dice: è vero. Ma io perché sono a fianco di un demente del genere? Sara! Ma non è vero. Poi, tra l'altro, stavo riguardando un attimino il volantino. C'è anche un bel po' di persone a sostenere l'evento. Non so, possiamo dirlo? Ma sì, diciamolo. Aspetta, dai. Che vado a prendere il volantino. Intanto Sara mi aiuta a tenermi occupato. No, scherzo. E no, perché poi tra l'altro dietro c'è l'evento precedente. Noi andiamo infatti avanti. Stavo staccando 7-8 eventi. Allora, ci sarà. Dammi una mano perché io effettivamente non voglio più. Mega città per bambini con gonfiabili giganti. No, vabbè, non esageriamo. E questi sono tutti per me. No, vabbè, ma stringiamo, ragazzi. Torneo di calcio, vabbè. Balli. E questo è per me. Codici di Zelig Colorado, bancarelle, insomma, guarda che. Quindi non è abitazione, spettacoli e asta. Max Ladaudio, Sara Maestri, Elena Ossola. Orca. Vabbè, dai, abbiamo fatto un elenco completo. C'è gente famosa. Abbiamo un elenco completo, dai. Ecco, adesso dobbiamo vedere se. Sara Maestri e la nostra sono belle ragazze, perché bisogna sempre controllare queste cose, cioè non lasciamo al fato che magari arrivano e ci rimangono delusi i nostri ascoltatori. Andiamo ad ascoltare un altro brano e poi dopo dobbiamo assolutamente salutare, perché dietro ci stanno pressando a tutto spiano. Vedo già delle facce cattive. Infatti male. Il prossimo brano è un altro famoso in chiave però remix, è Dua Lipa con Think About You e il remix di Seppi. A Dua Lipa. Dua Lipa. Mm-hmm. 3 a.m. and my neighbors hate me. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. And shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Wolf Trips, I viaggi del lupo. E anche per stasera siamo arrivati alla fine. Caspita, vola sempre qua l'ora. Si passa velocemente. È una cosa impressionante. Un po' infatti, tipo la macchina del tempo. Arrivi qua, due minuti e sei passato un'ora. E tra l'altro abbiamo anche sforato tra virgolette. Non lo diciamo. Non bisogna dire certe cose. Allora, tu volevi ricordare qual era il motto della radio. Allora, ok, diciamo. Anni fa, quando si veniva qua in radio, il motto era... Cazzo, non mi ricordo più, che figura di merda che ho fatto. Brutti, sporchi e cattivi. Sì, però ascoltando la musica e questo tipo di programma, secondo me bisognerebbe cambiarlo. Cioè, bisogna fare belli, puliti e buoni. Ma non c'è nulla qua. Cioè, brutto son brutto, sporco son sporco, cattivo. Insomma, se mi girano i ball. Ma no, stavo scherzando, dai. No, ma ti ricordi anche quelle belle pubblicità che passavano? Io prima che... Ma c'è qualcosa ancora in giro? Aspetta che intanto che parliamo vedo di recuperare allora, qualcosa. Ricordo, quando ero proprio pischello, tipo 13 anni, che la radio non la conoscevi, no? E l'ascoltavi e basta, che era 90-700. No, adesso purtroppo ce la siamo bobbata. Mi ricordo che c'erano queste belle pubblicità tipo del trattore che girava in giro per Radio Lupo, l'aeroplano che girava in giro di Radio Lupo. E io ci credevo anche, dicevo, cavolo, ci sarà in giro questo trattore che emette queste frequenze, no? Da quanto ero cretino, cioè, da piccolo punk rockers. Però devo dirti la verità che l'hai detto sbagliato, perché quello giusto è sporchi, brutti e cattivi. Ma vedi, perché adesso è diventato più brutto, quindi quindi sporchi, è ancora cattivi. Più brutto. Mentre prima era un po' più bello, era più sporco, era sporchi, brutti e cattivi. Ho capito. Vabbè, stasera abbiamo fatto un po' il programma in versione strunzata. Faccia da culo, Abbiamo fatto il programma un po' in versione strunzata, però comunque abbiamo ascoltato anche un bel po' di musica nuova. Sì, certo. Aggiorniamo sicuramente settimana prossima, e magari se si vuole degnare il tuo socio. Se Emanuele, ripeto. Caro Emanuele, tu devi fare... Aspetta, glielo dico io. Caro Emanuele, tu devi fare qualcosa e lo devi fare, perché sennò finisce a schifeo. Emanuele desiderato la cassa. Cassa numero 4. Dopo queste minacce possiamo chiudere con la nostra... Vabbè dai, salutiamo. Allora salutiamo Sara con il suo blogs. Metterai qualche post nuovo questa settimana? Sì, forse dai. Sì. Che diamine. Poi salutiamo Fabio invece con il suo, diciamo, pirla. Ecco, la sua pirla. Fabio il pirla. E vi saluto io che sono Domenico e niente, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. Vi lascio con il jingle che ho trovato. Bravissimo. Ciao. Se siete sporchi, brutti e cattivi, benvenuti. Siete sul rock di Radio Lupo Solitario. Vuoi la musica di Radio Lupo Solitario sempre con te? Vuoi interagire con le nostre dirette? Scarica l'app. È gratuita e disponibile per dispositivi iOS ed Android. Radio Lupo Solitario. Keep your rock alive.